il meccanico, no, a tentativi come fa qualcun altro, senza fare nome, che io conosco altrettanto bene, ma per dire no, è così. Va bene, dai, avanti Franco. E a tentativi, prova, a provare si prova il melone o Giulio. Io quando certe cose riesco a fare le faccio, certe cose che non ci arrivo, che non ho l'attrezzatura, la porto al meccanico e me la faccio fare, chiaramente, non è che posso fare più di tanto, capito? Anche perché ci vuole il ponte, non è così, perché io ho cambiato quelle funi, ma un casino, ho dovuto metterla sui cavalletti, smontare, fare, cioè ci ho messo un'ora a cambiarli tutti e due, però è un lavoraccio. Col ponte ci metti molto meno e così via dicendo. E vabbè, comunque quella che ho io, la macchina va bene, adesso una volta che cambio questi dischi è a posto, il motore va bene, l'ho fatto tagliando tutto, capito? Cambio d'olio, filtro del gasolio, filtro aria, tutto gli ho cambiato, quella roba lì, quindi adesso è a posto e può navigare ancora. Ok, vai Gianni, che megata. Io qua ho un altro Rossetto, lo conosco da ragazzino, giocavamo insieme e poi portavo la macchina dal padre, quando c'era ancora il padre, e poi è arrivato lui, dopo il padre l'ha preso lui. Però sono stati sempre degli ottimi meccanici, addirittura facevano anche le macchine della polizia, oltretutto, non so se te lo ricordi. Sì, ripeto io, perché Claudio ha detto che stava in ascolto. Stavo dicendo, sì, lo so, infatti erano vicini, lui riparava le macchine della polizia, certo che sì, è un grande meccanico, e io, ripeto, mi servivo da lui, mi servivo anche, non è che non... E l'altro che c'era, bravo molto, che sicuramente l'avete conosciuto, che ormai non c'è più nemmeno... non l'officina, non c'è più nemmeno il capannone, addirittura, che è quello che c'era in via Gabriele D'Annunzio, Cordolo, come si chiama, non me lo ricordo il cognome, un uomo anziano che quando lavorava principalmente sui camion, era un meccanico straordinario. Ti ricordi Gianni dove c'era Murito, leggermente più su, nell'angolo di via Pomerania, c'era un'officina, c'era, ed era un uomo anziano, un uomo grande, ma era veramente un grandissimo meccanico. Qualche volta me l'ha fatta anche lui, ma devo dire che era proprio veramente bravo, ma bravo, bravo, bravo. Per cui no, già c'erano prima i meccanici bravi, solo che magari oggi, se loro non si sono aggiornati, possono trovare delle difficoltà, perché con il tipo di macchine moderne di oggi, magari devi essere aggiornato, ecco, il discorso è questo. E Franco è giovane, so che è uno di quelli che è aggiornato, va a fare i corsi sempre di aggiornamento, e poi è anche attrezzato. È attrezzato, l'officina è piccolina, non è come quella che aveva Rossetto una volta, che era un'officina grande, eccetera. Però io parto sempre dall'idea che non deve essere l'officina grande, deve essere grande quello che ci lavora in quel laboratorio o in quella officina. Io la vedo così, in questa maniera. Vai Gianni. Stavo parlando proprio l'ultima volta che sono andato, e ho fatto dove si mette un'officina più grande, magari. Ah, ho già mai, prendo gli appuntamenti, ne prendo due alla volta di macchine e le faccio, poi finita quella faccio le altre, non ne ho di problemi, no, non ne vogliamo fare altri spesso, ma vado bene qua. Infatti è così, è quello che ti sto dicendo, non deve essere grande il locale, grande deve essere chi ci lavora dentro, quello deve essere grande, cioè la persona, l'operaio, quello che fa il lavoro, è lui che deve essere grande, il discorso è sempre quello. Anche a me tante volte mi dicevano, ma non hai mai pensato a prenderti il capannone a prendere, eccetera, e per quale motivo io devo spendere 200 milioni per comprare il capannone, a stare tutta la vita pagando il capannone, quando questo locale è mio, lavoro qua, è la stessa produzione che faremo il capannone, la faccio qua tranquillamente. Tu pensa solamente, dicevo a certe persone, questo lo dicevo anche a certi falegnami, no? Tu che lavori sotto principale, ce l'hai lo spazio come io qua? No, non ce l'ho. E allora come vedi, che cosa, a cosa ti serve il magazzino più grande? Solo avere le spese più grosse? E io la penso così, Gianni. Vai, riprendi e fai girare tu, vai. Certo, è una questione di comodità, ma poi è inutile che tu prendi tanto lavoro quando sei fisso, nel senso che fa quel solo a fare tutto il lavoro, non c'ha aiuto, quindi più di quant'altro non può fare, l'utile che ci prende il capannone grande per accumularsi le macchine e poi poterle fare solo due alla volta, è normale. Appunto, che allora a quell'epoca quando andavo io un capannone costava 200 milioni, costava, perché allora c'era la lira, no? E a presa lieta. Dice, ma la regione ti dà un piccolo contributo, sì, ma mi dà per pagarmi la cassa della Mondezza, mi dà, che contributo ti dà? Ma ti sembra che io devo stare 30 anni pagando il capannone? Ma non ce l'hai. Qui sono io, ma anche se il capannone me li tengo io e ce l'ho. È così, sì, poi naturalmente alla fine poi cosa succedeva? Che tante persone quando smettevano di lavorare, come è successo tanti, non riuscivano a venderlo, non riuscivano, e l'hanno dovuto dare per una miseria chi è riuscito a venderlo, tanti altri magari qualcuno è riuscito ad affittarselo, però non è conveniente nemmeno quello comprenderlo in affitto. Avanti Franco. QSL, in definitiva è così, vabbè. Io purtroppo giù, se riesco a farmi una cosa mi ho recuperato 100 euro, capito? Certo, ma è così, certo che sì, ma è normale, finché uno se lo sa fare va bene, non ha niente, non deve niente a nessuno, è padronissimo di fare quello che vuole nelle sue cose, ci mancherebbe. Però per dire, uno che non è all'altezza di fare, ad esempio, come hai fatto tu, cambiarti quello che è cambiato nella macchina, eccetera, deve pensare di portare a chi lo sa fare e non pensare, ma quello mi prende magari 20 euro in più, 30 euro, 50 euro in più. Sì, ma ti fai il lavoro garantito, ecco qual è il discorso. Invece i certi meccanici che l'unico aggiornamento che fanno è da un bar all'altro, e io ne conosco qualcuno nella mia zona, infatti, che faceva da un bar all'altro, senza fare nomi, ma per dirti no, vai e fidati di un elemento del genere, ma fa caridare. Vai Gianni. Sì, ci sono, allora praticamente io Franco l'ho conosciuto da una volta che ho fatto un lavoro sulla Opelastra Station Vero. E praticamente l'ho portata alle cucce per fare un lavoro di retrauto. E poi mi ha detto se c'avevo lavori di meccanica da fare, che li facevano anche i lavori di meccanica, no, che c'avevo il meccanico. E tu si c'è da fare le pastiglie di freni, e va bene. Poi mi ha telefonato e mi ha detto, guarda, ci vogliono anche i dischi perché sono consumanti. Vabbè, cambiano anche i dischi. Preso i dischi, tutto quanto, l'ho messo i freni, e vado a buttarci la Mondezza con questa macchina, tiro il freno a mano, ragazzi, la macchina stava scendendo, ho fatto tempo a prendere. E praticamente sono andato da Franco, ho detto, Franco, così lo conoscevo, ma è toccato, non cambia stato un librerario messo. Quello dice, ma chi è questo qua che si è improvvisato a meccanico? Io l'avrei denunciato, e ho messo le pastiglie così al rovescio. E più di uno c'è di questi elementi, ma prima cresceva, anzi anche oggi probabilmente, oggi un po' meno magari perché sanno che devono pagare le tasse eccetera, prima le tasse erano, si pagavano in maniera diversa, voglio dire, prima nascevano dei meccanici così come nascono i funghi, no? Andavano, si compravano un'attrezzatura, si compravano una decina di chiavi eccetera eccetera, per dire chiavi, per dire quello che serviva, no? Aprivano il magazzino e facevano subito il meccanico officina. Ma che tipo di pesce sia, si può sapere, ma se tu fino avanti ieri eri muratore, adesso sei diventato meccanico, ma vuoi scherzare? E sai, cos'era? Che magari lui era in grado di farsi qualche lavoretto nella sua macchina personale e si era convinto che poteva fare magari il meccanico. Di queste persone, sai quante ce ne ho conosciuto io già? Un'infinità. E i meccanici veri, io già li conosco, li ho conosciuti e li ho sempre, sono andato sempre da quelli, non certamente da certi pellegrini che per carità è meglio non parlarne. Avanti Franco. E qua non faccio neanche nome io, perché a me una volta ho portato la macchina quando c'avevo la brava l'ho portata da un meccanico senza fare i nomi, mi ha preso 500 euro perché mi ha detto che c'era la sciacquata consumato, perché se picchiava in testa, no, tipo tin tin tin tin tin, vabbè, me l'ho portata, 500 euro, poi ho controllato, invece c'era la pompa, praticamente la pompa dell'olio che non pescava olio perché era intasata e quindi non distribuiva l'olio praticamente alla sciacamel che c'è su e via dicendo. Sono riandato e ho detto ma la sciacamel è cambiata, io l'ho buttato via. Lui cosa ha fatto? Ha smontato la pompa, l'ha pulita, ha pulito il ragno che c'è sopra, praticamente si chiama ragno, quello che distribuisce l'olio alle puntinine e tutta quella roba lì, no, alla sciacamel. E mi ha pigliato, ti contento mi riavranchi, perché ancora eravamo in lira. Sì, ma ci sono queste persone così che si improvvisano operai, meccanici, ma te ne andano. Ripeto, io dove ho lavorato io ce n'erano almeno tre di meccanici come si deve, e ce n'erano. Prima addirittura che arrivasse Franco, prima che arrivasse Franco, ma ce n'erano un altro due o tre, papà che dai, uno di questi, era solo il lusso, infatti era sempre davanti sulla porta aspettando in attesa che arrivasse qualche cliente, perché ormai si aveva fatto un nome pessimo, e io non faccio il nome perché è il fratello di una persona che noi conosciamo benissimo, che abbiamo conosciuto tutti, e non dico nemmeno chi è, proprio perché non vorrei che fosse all'ascolto qualcuno, però era un randaggio come meccanico, per carità, ma comunque, riprendi Gianni. Mica c'è un prezzo. avanti. Forse non ti senti, avanti Brecche. Ciao Carlo, dove sei? A Bonorva? No, un temporale mi stai portando qua. L'uscita di Bonorva, i fulmini, ho detto poco fa io. A loro, ma evidentemente a Sassari non li vedono. Ci sono, anche grossi si stanno avvicinando, evidentemente sono già nella 131. Carlo, in macchina è fermo a Bonorva. Ok, se non l'ascoltate ve lo saluto io. Ok. Chiedi se mi sente Carlo. Ciao Carlo, se mi stai ascoltando, ma non credo, comunque è possibile, perché negli anni passati già lo collegavo. Chiedi comunque dopo o Claudio, fai la cortesia, se mi sente Carlo. Intanto lancio per Gianni. Vai Gianni. Minchia, roba di scariche. Gianni, aspetta un attimo Carlo, lo senti a Giulio? L'hai sentito a Giulio? Vabbè, io non faccio testo da qua, non è che è cambiato niente per me, Carlo. Anche tu stai arrivando molto bene, infatti pensavo che eri ad Alghero, figurati tu. Non faccio testo, Giulio ti ascolta, bassino ma ti ascolta, Tu non lo senti a Carlo, Giulio? No, io non lo sento, purtroppo non lo sento. Io potrei dare qualcosina in più così per farmi sentire un po' meglio, però io non lo sento, purtroppo lui è in macchina e non lo sento. Comunque Carlo, se mi stai ascoltando, ti saluto e magari se stai rientrando ci possiamo sentire per un po' man mano che fai strada. Intanto un rilancio per Franco, avanti Franco, poi Carlo in Bonorva. Ciao Carlo, buonasera, io non l'ascolto. Arriva basso qua, Santiago 2, Radio 1. Non so se lui mi ascolta. Avanti Carlo, se mi ascolti. Mi ascolta Santiago 3. Santiago 3 ti ascolta, ok. Carlo, Franco non ti ascolta, però capito, non ti ascolta. Qua sì, Santiago 7, Radio 5. Ripeto, pensavo fossi ad Alghero. Non avevo dubbi di questa zona, non mi mancava niente. Molto bene, aveva ragione Giulio. Vediamo un po' se è rientrato Gianni, così facciamo l'ultima prova, vediamo se senti anche a Gianni, Carlo, se Gianni sente a te, a Gianni. Ehi, allora, era al telefono, guarda, stavo telefonando alla pizzeria ma non ho risposto. Carlo, non so se mi ascolti, buonasera. Io non lo sento. KQSL, sì Gianni ti ascolta, anche a te bassino ma ti ascolta, però loro non ti sentono Carlo, capito? Non ti sentono, ok? Sì, sulla strada Bonorva già, molto bene, qua arrivi fortissimo, non ci sono problemi e quindi va tutto K, però mi dispiace ma Sassari non ti ascolta, tu conoscenti a loro, anche Bassi, però non ti ascoltano loro. Vai Giulia. Ok Claudio, sì, hai visto cosa vuol dire? Questo torniamo col discorso dell'altro giorno, tu non hai perso, hai guadagnato, perché è così in effetti, considera che Carlo è in macchina, io posso capire se fosse stata stazione fissa, li sentivi magari prima, magari adesso li senti anche meglio, però considera quello, probabilmente se fosse stato a casa può darsi che non l'avresti nemmeno sentito. Io ne sono più che convinto di questo particolare, il fatto che tu ti sei spostato e hai, per conto mio, guadagnato, non hai assolutamente perso niente, nulla di nulla. Bene, facciamo girare, avanti Franco. Claudio, se fosse stato nella zona dove era prima, addirittura collega Baccoso, come si chiama, Buduzò, pensa tu. Claudio, dove è una bella zona lì, è buona, meglio di questa dove sono io adesso. Perché vedi che a me mi ascolta bassa, buonorma, forse è anche il tipo di antenna che sto utilizzando io, che non va bene, molto bene questa verticale, non è a livello di una Mantova 5, capito? Io l'ho sempre detto, la ricezione è molto bassa, può andare bene come antenna, però come piano di massa non vale a niente. Ma io non mi posso lamentare, la verità, fra, tanto siete tutti molto molto bassi, Giulia a livello del mare, Gianni, qui sei leggermente più alto, ma qua siamo a 400 metri di altezza, attenzione, davvero prima ero a 270, 280, qua siamo, misurato con l'altimetro, siamo a 385, quindi la sfortuna è che la mia casa già l'hai vista, fra, è appena appena nella vallata, se fosse stata appena 50 metri più su, Buduzò, non c'è temere a Santiago no per me, Fattara, Buduzò, anche Monserrato mi arriva a Santiago 9, a Sassari mi arrivavano più un certo 5 e Monserrato 6 o 7, ma con lineare attaccato, quindi non c'è problema. È chiaro che adesso all'interno di Sassari ho perso qualche punto S, ma a me non me ne frega niente, mi sentite lo stesso, se non è 9.30, 9.20, 9.10, ma mi ascoltate tutti. L'importante è che io senta tutto il nord e il sud di Sardegna, perché arrivano veramente molto molto furti, Fieri ha raddoppiato il segnale, Oschi, sento Olbia, cosa che non sentivo prima, quindi non ho problemi, va bene così. Carlo, ti ripasso il cambio per Gianni, poi mi dici dove sei arrivato, vai Gianni. Ehi, allora, vediamo un po' se si avvicina, ma sta venendo verso Sassari? Sì. Carlo, non lo so, io non ti ascolto ancora, dai, se puoi fare qualcosa per farmi sentire. Aspetta, non è possibile, ma cioè, adesso tu sei sopra su a Giave, ma sai quanto stai arrivando qua? Sicuramente, guarda, ti ho sentito sotto Gianni, ti dico tutto, ti ho sentito sotto, modulando sotto di Gianni, quindi immaginate tu quando stai arrivando qua a casa mia, Carlo. Non lo so, ma sì, sopra a Giave adesso. Mi sento un attimo. Lo so, mi senti a bomba, c'è il segnale è uguale a quello tuo, tu sei 9 qua. Santiago 9, Radio 5, è una bomba, ti arrivando, veramente molto molto forte. Quindi penso anch'io sia a quei livelli, ma se hai detto che mi stai ascoltando una bomba. Sì, Giave sei intorno ai 570, quasi 600 metri di altezza, perché ci ho lavorato lì in quella zona, capito? Quindi lo conosco molto bene. Conosco anche bene dove sei fermo, perché proprio se sei nella curva dell'ingresso del paese, se sotto vedi delle luci, lì c'è un impianto di depurazione. Avanti Franco, comunque è a Giave e non vi sente. Questa dai, riprendo io lo ascolto qua, però a volte sparisce, capito? 1-2 di segnale, 5-2 arriva, a volte arriva così, poi scende di colpo, poi risale. Ok, rapporto per te 5-9 più 20, qua come sempre, ultima modulazione. Rilancio a Gianni, vai Gianni. Gianni è adesso in pizzeria, sta ordinando la pizza, non so. Capito qua, sì, è una bella zona, ultima zona. Però ribadisco, come stavamo parlando l'altra volta, dicendo, questa antenna è buona, per niente da dire, però non è a livello della Mantova 5, capito? Vedi che la ricezione è molto meno, io ci avrei avuto la Mantova 5 qua, e mi ricordo che Bonorba l'ho collegato benissimo con la Mantova 5. Aspetta, scendi da sotto, quindi dalla stazione, poi fai la 131, ho capito, no, ti ho sempre modulato Franco che non ti ha sentito, ci ho delle scariche allucinanti qua, cioè si vedono i fulmini da lì sopra, ma io già li vedo anche da qua su. Vabbè, Gianni, riprendi, dai. Cioè, ma nessuno si è affacciato alla finestra a vedere i fulmini, è impossibile, perché io li vedo da qua, sono proprio dalla parte di Sassari, verso, verso la zona mare. Io ci ho messo un pezzo di cavo a terra, là, dalla massa a terra, capito? Così se scarica, scarica in terra. No, io ci ho portato col picchetto, no, ci ne fate ne cagate, no, che non mi stai scherzando, no, che si pigliavo tutto. C'ho il picchetto con il giallo, giallo verde del, dell'impianto elettrico e poi la freccia di massa grossa da 12. Va bene, c'è proprio il perfetto con dove tu apri, si vede il picchetto dentro, sarà un metro e mezzo sotto il giardino. No, infatti io non ho elettrostatiche, non ho niente, non qualsiasi cosa tocco, no. Non mi dà la scossa, che attacciarsi era un casino, cioè, avevo tutte le radio con i giallo verdi qua, assolutamente, anche il DAC, il Galaxy mi dava la scossa lo stesso, a 220 come attaccavi la presa, impianti vecchi, questo è stato fatto tutto nuovo 4 anni fa, 3 anni fa, quindi vediamo un po' se Giulio è rientrato. Giulio, no, vai Gianni. Un attimino, sto chiamando la polizia, già rientro io, Claudio. Allora il cambio per Carlo, avanti Carlo, dove sei arrivato? Sì, sì, ti ho sentito, fai tranquillo, non c'è problema, vai fra. Ecco, perché l'ho sentito, ma arriva molto basso qua, forse la zona mia è negativa per lì, o forse il tipo d'antenna che sto utilizzando io che non va bene, no. Come ricezione non è un granché questa antenna qua, comunque. È così. No, fra, l'antenna va bene, la zona, no. Devi passare tutto Sassari e scavalcare Scala di Ciocca, quindi se sei più basso di Scala di Ciocca non ce la fai a passare. Io sono molto più alto di Scala di Ciocca, capito? E quindi no, non c'è problema, ma non avevo dubbi. Che la zona fosse buona, tenendo conto che questa antenna è a 2 metri da terra, adesso quest'estate faccio un mega lavoro di quelli allucinanti, la metto 7-8 metri più alta, vediamo come si comporta, la metto i tiranti, faccio una cosa fatta bene, è ancora tutto provvisorio, però sta rispondendo veramente molto molto bene, veramente molto molto bene, sia l'antenna che la zona. Giulio? Sì, sono appena tornato e mi ero allontanato un attimo, non so se mi avete sentito che ho avvisato. Beh certo, la zona che hai tu è fenomenale, è molto molto positiva, o Claudio, per cui per quello che ti dicevo io, con insistenza anche, che tu avevi guadagnato, non avevi perso. Cosa te ne frega di Sassari, se arrivare il 9.20 da me o arrivare il 9.10, non mi cambia niente, né a te né a me. Mentre invece a te ti cambia il fatto che tu senti il dente da più lontano, da quella parte, e loro sentono a te, per cui il vantaggio è notevolissimo, non è poco, è molto molto notevole. Avanti Franco. Come c'è, Gianni? Sì, Gianni al telefono, Giulio, sulle scariche, i fulmini che ci sono, allucinante. No, ho parlato da poco sul canale 20 con Manuel, quello che ti ricordi parlavo a carbonati anche, arriva leggermente più forte, prima arrivava sui 4, adesso mi arriva tra il 5 e il 6, ed è vicino a Cagliari, dopo Lizzano, capito? Dopo Lizzano. Quindi non mi posso lamentare. Avevo dei dubbi perché Franco sa dove abito, è venuto, forse uno dei primi che è venuto qua, perché stavamo facendo dei lavori. Io sono praticamente nel costone, in alto, però nel costone, perché c'è proprio in punta, leggermente nella vallata, una cinquantina di metri più basso proprio della punta massima qua di Serra Secca. Se fossi stato attaccato al fratello di Roberto, a Danilo, perché siamo vicini, sarebbe stato Sant'Antonio mio. Vabbè, comunque non mi posso lamentare, dai, va bene. L'importante è che sento Sassari, sento tutto e tutti mi sentono, pure del resto no. Non è importante essere più forse uno o dell'altro, l'importante è che io arrivi a tutte le parti. Vediamo un po' Carlo, sei sceso la chiave? No, allora quando ti metti chiama, io intanto ti sento, ti faccio la ponte con gli altri. Avanti Franco. Edia, Edia, guarda il segnale adesso, class, è meglio di prima. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prova. 2, 20 sì, io fra. 9 più 20 stai arrivando, come io arrivo a te. Giulio è 9.10, tu sei 9 più 20, vabbè, ma Giulio è ai punti, tu sei attaccato a meno, quindi ti vedo io a te fra. Non ti vedo, ma quasi, insomma, sei abbastanza alto per la mia zona. Avanti Giulio. Anch'io vi vedo qualcosa, col monitor a colori. Coccoma è. Vai, pedivella. Coccoma è, c'è la pedivella, vai Giulio. Ok. Ma è così, in effetti è così, no? Comunque, io nella piccola palle diciamo che già mi accontento, ecco, insomma, mi va benissimo lo stesso. Tanto più che riesco a parlare quando c'è preparazione abbastanza lontano a livello di quelli che sono in alto, per cui non mi interessa più di tanto. Tanto per me arrivare alle 9.10 o arrivare alle 9 o arrivare alle 9.20, cosa mi cambia, che cosa vinco? Non vinco niente, per cui va bene così. Quando mi sentono sono contento, è quello che mi interessa a me. Avanti l'amico, chi era? Luca era, o Natalino, non ho capito bene, avanti. Passo giù, io sono. Ciao Natalino, allora, come va oggi? Qualche volta a piedi, qualche volta in bicicletta già. È meglio così, capita, tu hai un 2000 e vai a piedi o in bicicletta, vabbè, comprati anche il monopattino, non se ne parla più. Ciao Natalino, buonasera. Ciao Giulio, ciao Claudio, ciao Franco, buonasera a tutti, dai. Ciao Tatari, buonasera e ben ascoltato, alla grande, arrivi fortissimo. Va bene, vediamo, consentitemi di dare ogni tanto spazio a Carlo, si è partito. Carlo, no, adesso sta facendo la macchina, quindi richiamerà lui. Va bene, avanti fra. QSL. Ciao Natalino, mi ascolti? Sì. No, no, ti vedo che c'hai anche i baffi da Sarviero. Addirittura. Oh Cla, spiegami una cosa, ma come mai che ce ne sale più del solito? Ce ne sale che cosa? La potenza? L'ho messo a 10, adesso se ne sta salendo oltre 50. Ma come picco? Normale, fra, non sai, quella radio era la mia e me l'avevo preparata, l'avevo fatta a turbo, è normale, fra, è normale. È normalissimo, c'è già dei picchi di modulazione, ma si vedono anche qua, capito? Ha detto l'ho messo a 10, sta picchiando oltre, quasi vicino a 50. Sì, vabbè, l'importante è che tieni, infatti io lo stesso, io ce l'ho a 20 watt a 10, non lo metto mai perché non lavora bene la radio. Lo metto sempre ai 15-20 watt, picchia intorno ai 40, va bene, però sul parlato, ma la portante è sempre da 15 watt, non è che cambia niente. Vai Giulio. Ok, sì, beh certo. Tanto più che questa è radio di questa marca, così perlomeno, come queste che abbiamo noi, è quella che da in AM, in effetti massimo da 50 watt, non di più. Importante, poi magari modulati, può arrivare anche a 100, non ci sono dubbi, mentre invece in banda e in FM è da 100 watt, non ci sono dubbi, è così, non c'è niente da fare. Ma Gianni si era allontanato? Sta cercando di chiamare la pizzeria. No Giulio, quella radio la conosco bene, io glielo sai di chi era. La radio se tu la metti non a 100-100, ma se la metti a 70 sul parlato va a 100, 70 watt di portante te li dà quella radio, è che tu la usi sempre bassa, però una bella bestiolina anche quella, io già lo sai che è arrivata qua, l'ho usata una mattina e l'ho testata tutta di nuovo per vedere se era tutto a posto, se aveva fatto un bel lavoro e gli ho attaccato il wattimetro e a vedere se li dà. che regge a forte quella radio, ma sono tutte così, eh. Questo non è il 430, questo è il 140 fra, io ho comprato Dio, mi è capitato perché me l'hanno portato per cambiare la batteria tampone, e questa era la mia, è nuova, nuovissima, proprio di pacca, solo che l'ha tenuta un po' di anni dentro l'armadio, è andato a accendere, accendeva, funzionava, però non manteneva le memorie, allora me l'ha portata, gli ho cambiato la batteria a tampone, e quando gli ho telefonato di venire a prendercela, mi ha detto, ma sto pensando di venderla, fa una cosa, vieni a prendere i soldi che me la tengo io. È fatto bene, una bella modulazione, e questa qua lo stesso va bene com'è. Oh Giulio, ma stavo dicendo, ma qual è quella che avevo fatto io? Sì, e allora, è sempre quella, e allora, l'ho cambiata, e cosa la cambia a fare, no? E va benissimo questa, non c'è problema. Adesso, quanti anni sono passati, tu te lo ricordi, Ofra, più o meno, quanti anni fa l'avevo presa da te questa? E un paio di anni fa, però quella radio era una bestia, io me lo ricordo, quella era di Claudio, la radio, lo stesso, esce forte. Oh, anche questa niente da dire, questa c'è una bella modulazione come radio, non ce n'è. Ti sto dicendo che l'ho portata a 10, se aumento arriva ancora di più, sale oltre 100 questa. Sì, è un bel tirata quella radio, me lo ricordo, io l'avevo provata una volta, in banda laterale da 150 wattipini, no, quella di Giulia non è tirata molto, io l'ho sempre usata con molta tranquillità quella radio lì. Poi l'avevo data a te, ti ricordi? Però già faccio lavoro. Poi quando l'ho mandata da Vittorio a riparare, me l'ha restituita, me l'ha restituita e va via 30 watt. Ha detto, com'è 30 watt? No. Tanto se li avevo così, a Giulia me l'ha cubi a capo. Allora, tolto il coperchio, mi ha messo gli occhiali, sono andato sulla resistenza variabile della potenza, mi ha messo il watt, mentre praticamente l'ho regolata a 100 watt di portante, come tutte quelle che c'ho io. 100 watt in AM, 100 watt in FM, 100 watt in SSB, siccome quella si regola, quindi arrivi sino a 100 watt, per quello che lo sto dicendo Giulio. Te l'ho regolata io di nuovo, perché quando me l'ha mandata Vittorio, purtroppo i tecnici te la mettono al banco e te la tarano come da manuale, capito? Non più di 30 watt. Infatti quando arrivi da noi, gli dico no, assolutamente, gliela metto come l'ho messa. L'ho messa come deve essere, infatti. E ci può fare anche un'altra, ci può fare un'altra modifica qua, ma io non la faccio adesso, una giovane di appunto a Massai con lo schema, perché questa la puoi portare pure a 150 in AM. Ah, scada troppo fra, sia 80 e 140, ma sono come 440, c'ha il finale un po' più robusto del 440, e questo è meglio lasciarle così. No? Poi la modifica che è nata su queste radio che a me mi aveva insegnato Carlo Cerca 23 di Chiaramonti era quello, mi ha detto ricordati sempre, e poi vabbè non ci pensavo, comunque ci ricordati sempre, se ti dovessero dire fammi appena nacchi, sempre appena, poi già lo fa lei il suo lavoro, perché se le dai tutti i watt può essere pericoloso, infatti io le ho sempre regolate non più di 70 watt con picchi a 100 al massimo della potenza, se no la tieni sempre come la sto tenendo io, 20 watt, 10 watt, ma non sotto 10 watt, non andate mai sotto 10 watt, se no non lavora bene la radio. Vai Giulio. Ok. No, in AM non disegna 100 watt questa, arriva 50, ma è così dalla casa, è nasce così, io ho la cosa anche, come si chiama, il prontuario, diciamo, dai, che in AM nasce per 50 watt, però modulati poi arriva a 100 e magari anche a 150, perché quando moduli arriva a fondo scala la lancetta, mentre invece in FM 100 te li segna anche a solo portante. è così anche in banda laterale, ovvio, quando metti il microfono a un certo numero di a un certo volume arriva sempre a fondo scala, non c'è problema. Però in AM questo è importante, non sale più di 50, può arrivare a 60, non di più, perlomeno l'ho sempre verificato, mi ci provo anche adesso. Più di 60, eh. Adesso io l'ho messa praticamente al massimo, adesso ho più di 60, ho qua, dimmi com'è. Ma te lo sto dicendo, 70 watt io te l'ho regolata, quindi 70 watt deve segnare, io la tua te l'ho regolata a 70 watt di portante, modulati 100, l'ho regolata io Giulio, quindi per quello te l'ho detto. Poi dalla casa queste radio in AM danno 35 watt, non arrivano neanche a 40 watt dalla casa, poi si può leggermente tirare, ma non più di 60-70 watt in AM. Sì, sì, infatti adesso l'ho verificato. Ecco, il portante fissa è 65 là, una cosa così, 65 metà l'anno, poi dipende naturalmente anche dall'antenna, e se uno ha un'antenna buona magari rende qualcosina in più, e non so se si vede la differenza anche del segnale. Vai Franco. XL, quella radio da 100 watt in AM, Giulio, 100 qualcosa ne dava. Allora, questa che ho io adesso, che stavo utilizzando, io la porto a 15 watt, modulati me ne dà 60, quasi 70, se poi la porto a 50 sale oltre i 100, capito? Sì, sì, però non hai ascoltato il testo, Giulio, normale, normale, però quando te l'ho data io a te non era mai entrata in laboratorio, ok? Quindi la potenza l'avevo regolata io, quando quella radio è arrivata, sì, si vede la differenza, Giulio, si è andato quasi a 9 più 20, 9,17, 18, da 9,10, già si vede, ma raggiunti la pompa. Quando io l'ho mandata al centro assistenza, lei sai quella radio, Giulio gli ha fatto tutta la messa a punto, chiamiamola così, tutta la parte del VCO nuova, cioè tutta la centratura, insomma tutta riallineata, eccetera. Il tecnico quando la mette al banco per provarla, la potenza te la mette come deve essere dalla casa, capito? Come deve essere, infatti quando è arrivata qua la radio, io prima di darla a Giulio l'ho controllata perché è giusto così, l'ho attaccata alla mia antenna, al mio wattimetro e dava 35 watt di portante muta, 35 watt. Ho detto a Giulio non gliela do così perché chiaramente la vuole con la massima potenza e quindi gliel'ho portata a 70 watt di portante, 70 watt di portante, non sono molto precisi Giulio, ci hanno sempre 2, 3 watt, 5 watt di scarto gli strumenti di queste radio, però a wattimetro da 70 watt di portante bianca, capito? Perché te l'ho fatta io, quindi lo so. Sì, sì, no, ma mi risegna, sì, infatti adesso l'ho abbassata di nuovo, quanto non mi serpente che l'abbasso, ecco, boh, 15, 12, 12 watt più o meno, adesso più o meno è 12, all'incirca così, perché sì, sì, no, l'ho modificato adesso, e già me ne dava, era tra di 65 e 70, era vicinissimo alla lineetta 70, oh Claudio, però poi quando parlavo batteva proprio a fondo scala, largo, tranquillamente, non c'era problema. Bene, bene, chissà se Carlo c'è ancora, se mi sente ancora, non lo so, forse non ha ripreso a viaggiare, non lo so, dopo casomai già lo chiami tu qua. Avanti Franco. Questo lo riprendo io. Allora io la sto controllando i watt con uno strumento, con un MFG, allora col PVR, vicino alla R, 100 watt. Poi va ancora oltre e sale 100-110 watt, capito? Questa qua, tutto lì, ok, e questo strumento è preciso perché è perfetto, quindi non c'è problema. Mi pare c'era Natalino anche, vai Natalino, capito Claudia? Questa sale oltre 100, portate fissa 110 watt. Dai, vi saluto che devo fare roba, non posso trattenermi, girata. Saluto tutti cordialmente, buona serata a tutti. Ciao Gianni, buonasera, buona pizza e buon tutto. C'era Natalino, non so se è passato in QRT. Natalino, sì. E sto mangiando, già sono in ascolto. Ah, ciao a tutti. QRX per me. Cappa, vai Giulio, Claudio. Aspetta che le lanciamo a Carlo. Ciao Gianni, buona pizza, ci sentiamo. Alle prossime, anche Natalino, buon QRX e buona cena. Carlo, sì, arrivi fortissimo, sei oltre il 9, Carlo, non c'è problema. Assolutamente, poi se ti stai avvicinando, sei già Codrongiano, se no non ho problemi, se mi senti via Giave, a Bonova, figurati a Codrongiano. Sei oltre il 9, Carlo, vediamo un po' piuttosto se adesso ti stai avvicinando, ti ha sentito Giulio, vai Giulio. No, ancora non l'ho sentito, non so se lui mi sta ascoltando, perché a volte sei più lontano e lo puoi sentire, però se sei più vicino, secondo in quale posizione sei, può essere zona d'ombra, magari non si riesce a sentire, così vedremo, dai, poi mi dirà quando rientra proprio vicino a Sassari. Ok, avanti Franco. Ecco CL, a me non lo so se mi ascolta. Carlo, mi ascolti? Sì, ho detto ti ascolta, è Florina. Io lo ascolto, però lo ascolto molto disturbato, capito? Anch'io l'ho ascoltato in quest'ultimo passaggio, bassissimo, però l'ho ascoltato, non capivo molto, però l'ho ascoltato, un bisbiglio ho sentito. Ma quello è dovuto anche dall'apparecchio che c'ha sicuramente, un apparecchietto, non è che può pretendere più di tanto, anzi, sta facendo miracoli quella radietta che sta utilizzando, quindi non lei ci può pretendere più del solito, ho capito. Vabbè, in macchina cosa vuoi punire? Non è che puoi mettere 140 o 80, adesso non vai mai alla resa, io lo posso fare, ma lui non lo può fare, no? Capito? Per avere più watt. Sì, quindi Florina ce l'hai detto, Carlo, ho capito, avvicinati allora, stai attento alla guida perché Giulio ti ha già intercettato, ancora Franco non ti ha sentito, ok? Avanti Giulio, comunque si sta avvicinando, là è già Florina. Ok, sì, l'ho sentito poc'anzi, basso, non ho capito tutto il passaggio, però qualcosina ho sentito, man mano che arriva da queste parti è ovvio che riuscirò ad ascoltarlo, senza dubbio. Bene, magari sta piovendo anche, no? Non lo so, ancora piovendo lì da testa, Claudio. Sta parlando con Carlo? Io l'ho perso di nuovo e non l'ascolto. L'unico che l'ascolta è Claudio perché è zona molto più alta della mia. Si sta parlando, però non riesco a capire le parole, cosa sta dicendo, perché è molto disturbato, ci sono scariche anche qua, capito Giulio? Ok, figurati io, dove sono io, nella bassa valle, capita, se non riesci a capirlo tu, figurati se lo posso capire io, qui che sono nella bassa valle, però diciamo che fra qualche chilometro ancora, poi lo sentiremo sicuramente. Vediamo se avete preso Claudio. Sì, sono qua, scusate che stavo rispondendo al telefono. Cappa, ok, rispondo al telefono di ho un messaggio, vediamo un po' dove è arrivato Carlo, dove sei Carlo? 9+20 stai arrivando. 9+20, Codrongiano, zona industriale, molto bene. 9+20 il tuo segnale qua, sembri dentro Sassari, sembri a casa praticamente. Lo sentite adesso? No, io ancora no. Ancora non ti sento. Evidentemente è la zona lì. Scusa di gioca che c'è la montagna davanti in mezzo di me. Brecco, è registrato, avanti Brecco. Aspetta Franco, che stava parlando Carlo. Sì, beh lui è giù agli punti, quindi deve superare, sei ancora dietro a Scala di Ciocca, non è come noi. Mi ti mando avanti Roberto, che già ti sente, vai Roberto. Ciao Carlo, penso che mi ascolti, io ti stavo ascoltando, stavo aspettando per entrare. Mi ascolti a me Carlo? Ok, Santiago Otto qua, radio quasi 5, puccio il cuore in alto un pochettino, dai. Comunque ti ascolto, ti tiro fuori bene. Vediamo gli altri, chi c'era? Franco, ciao Giulio, ciao Claudio. Sei scarso però come segnale, 9+20 sta arrivando qua. E tu sei aperto, quella zona lì mi fai 10 al vero, già lo so, non c'è problema, tu sei a 100 metri più di me. Sì, poco fa allora che era a Bonorba, dentro Bonorba in macchina, poi salito sulla Giave, arrivava 9 qua, e 9 gli arrivavo io. 9 ci sono arrivato quando eri sulla Giave, Carlo. Certo. Certo, certo, va bene, sono contento che risponde tutto K. Giulio, a te il cambio. Ok, per salutare Roberto, ciao Roberto, ben arrivato. Sì, c'era anche Gianni, ma Gianni è chiuso, vabbè, adesso evidentemente non so se è l'ascolto, ma aveva già chiuso. Avanti, Franco, California. Questo lo riprendo io ancora non l'ascolto a Carlo, ho sentito vari passaggi però negativo, poi è risparito, sicuramente sta entrando in zona d'ombra per la mia zona, tutto lì. Ma Roberto, buonasera comunque. E tu hai fatto qualche cosa? Tu stai arrivando a Mammoletta, Fra. Io? Non ho fatto niente, io sto utilizzando un'altra radio adesso. Perfetto. Infatti te l'ho detto a Claudio, boh, questa radio è pazza sicuramente. Da me sei 9:30 con i picchi, un segnalone fortissimo. Un po' meno di Claudio, sta arrivando. Vediamo Carlo se mi ascolta ancora. Ci sei Carlo? Sì, ok, vai Claudio. Hai sentito sotto il cementificio. E vabbè, Fra, sei anche più vicino. Io ti do 9:20, ma io sono dietro Roberto, già lo sai, diciamo, Fra. 9:20 è un segnalone, Roberto ce l'hai attaccato, ti vedi, io non ti vedo, però 9:20, caspita, è un ottimo segnale, molto bene. Avanti Giulio. Devi proprio sì, 9:20 è uno dei segnali più forti, è certo che sì, ma va più che bene, poi ripeto il discorso che avevo un po' anzi, 9:10, 9:20 non cambia niente. È interessante che la radio sia sempre bella, pulita, è splendente, e possiamo cantargli anche la canzone, è splendido, splendente, vero Franco? Si conferma, infatti bisogna dirgli a Claudio cosa gli ha fatto qua, sicuramente ha messo qualche pastiglia dentro. Ehi, c'è radio, buon pavio. Robertico, cosa sta facendo l'Inter? No, aspetta, adesso la metto, non la stavo guardando. Ha detto che alle 7:15, aspetta. C'è le 7:25. Sono 7:25, quindi. Napoli cosa ha fatto? Perso? No, perché c'è anche a Napoli. A Napoli gioca domani, no, no, ci vedete. Ah, no, Tennanti, via Napoli, via, col Cosio, con. Stava perdendo 2-0. Ma si dice, se Napoli è in Europa League, questa stiamo parlando di Champions League, comunque l'Inter al 38esimo è 0-0. Shakhtar Donetsk, Inter 0-0. Ehi, Napoli in Europa League, stava perdendo 2-0, stava giocando alle 5, blu. Ma cosa, l'hanno anticipato la partita? Non lo so, io stavo guardando a 152, a Mondo Calcio c'era Napoli, stava giocando Europa League e stava perdendo 2-0. Addirittura, quelli erano, dice, ce ne fanno 4-5, ho sentito l'allenatore in intervista che siamo, sicuramente ci schiacciano, eccetera, e invece non lo so come stesso giocando. Sì, 2-0 stava perdendo, poi non so se ha rimontato, ma penso sia già finita, se adesso controllo il telefono. E poi te lo dico. Avanti Giulio, fai girare per Carlo, vediamo, dovrebbe essere già vicino adesso, dai. Ok, sì, intanto ti dico che l'Inter sta pareggiando 0-0 ed è al 38esimo. Non so se questo è il primo tempo o il secondo tempo, comunque leggo il 39esimo, dai, ed è 0-0 ancora. Per cui lo sto guardando nel telefonino adesso, lo sto guardando. Allora, non so se mi ascolti, io ti rilancio, vediamo un po' se riesco ad ascoltarti. Vai Carlo, se no fanno una ponte gli amici. Avanti Carlo. Carlo, ci sei? È mai entrato in galleria? Non lo sento neanche io adesso. Carlo, se ci sei batti un colpo. Sì, sei superato il 9, ti ascolto perfettamente. 9:10 questo passaggio, mi ascolti bene a me? Sì, sì, benissimo. Addirittura dentro le gallerie, cavolo. Dimmi un po', ma prima di coso, di Frulina, se c'è il sottofono giallo, se mi ascoltavi bene? Sì, sì. Prima, no, prima tu sei entrato da poco, quindi sì, quando ero lì sotto, sì, sì, sì. Come sono uscito da quella deviazione, ti sentivo bene. Adesso sei 9:30, vabbè, probabilmente è suonato così alto con le gallerie di lì, le antenne mie si vedono qua tu. Sì, sto girando in via l'Italia adesso. 9:10 mi stai arrivando Carlo. Napoli ha perso con lo Spartak Mosca 2-1, te l'ho detto, stava perdendo 2-0. Che vergogna, quello che rischia di uscirci fuori, mi dovevano vincere il Napoli. E lui è il Wilder che stava giocando, ha giocato presto, non so se sono 4-5 gol. Era un divano, stavo girando con la TV e ho messo a Mondo Calcio. stavamo dando risultati dell'Europa League, stava perdendo 2-0, ma al terzo minuto ha preso il primo gol, al terzo minuto, poi l'altro dopo poco lo stesso, ma ha perso 2-1, vabbè. Avanti Fra. QSL, Carlo, rapporto 578 qua da me, adesso ti ascolto benissimo. Sì, in definitiva, Cla, questo va bene come radio, una bella radio, niente da dire. Non gli ho fatto mai niente. Sì, mi fa, ti ho girato che era una nuova, era la mia. Era la mia, quindi te l'ho data che era la nuova nuova quella radio, come ho sempre dato io questi tipi di radio nuova nuova, e 440 lo sappiamo, io l'avevo quando l'ho data a te, era appena revisionato la Bianconi, allora era ancora Bianconi, anzi no, Guidetti me l'aveva fatto, Guidetti tramite Marco Scorpio mi aveva dato l'aggancio, poi Guidetti ha chiuso definitivamente, ero passato a Bianconi, però la tua era stata fatta da Guidetti, poi quando tu l'hai data a Giulio, ha mantenuto la revisione per tanti anni, poi le farà dare un rumo, adesso a Giulio le durerà un altro po' di anni e quindi è così, però purtroppo quelle radio sono così, tu immaginati che questa 140 è stata 4 anni dentro l'armadio, dentro tutta celofanata dentro l'armadio, è andato, l'ha presa, l'ha attaccata all'alimentatore perfettamente funzionante, solo che non manteneva più le memorie, una fesseria, cioè te le immagini, 4-5 anni ma è dentro l'armadio, nuova, nuova, nuova, perfettamente funzionante, prova a farlo un 440, una cosa del genere, che ti dà ieri chiaro gomolo, perché non parte solo il VCO, ma parte completamente tutto, si giugli, capito? Questi sono dei muretti, 430, 680 e 140 sono muretti, immaginate il mio 430, io ce l'ho 10 anni, l'unico che gli ha messo mani è Fabrizio e mi ha cambiato il display una volta, poi qualche altra cazzatina, ma mai roba interessante, proprio interessante. Mi ha sempre detto che chiaramente la radio è nuova, quindi bisogna trattarla con i guanti, perché se tocchi dentro magari si stacca qualche filo, qualche falso contatto, però c'ha 10 anni la radio, ce l'ho io, immaginati quanti anni ha, mai fatti lavori di VCO o di niente, sono dei muletti, però chiaramente sono radio vecchie, ma funziona sempre perfettamente. Gli ha messo da poco il filtro M che non c'era, adesso è completa, c'ha tutti i filtri, perfettamente funzionante, ed è nuova, nuova, Roberto già l'ha vista. Vai Giulio. Ok, beh certo, no, funzionano bene, sono radio che vanno molto molto bene. Anche questa ormai, quanti anni è che me l'hai data, oh, Franco? Saranno 8 anni almeno, come minimo. Per cui cosa ha avuto? Due volte un problema ha avuto, per cui adesso sembra che va bene, speriamo che continui ad andare bene, se no pazienza, che cosa ci vuoi fare? Del resto sono radio del 1986 addirittura, sono nate in quegli anni lì, per cui non è che possono durare in eterno, questo è sicuro. Vai Robert. E a te facciamo vedere, venire avanti a Carlo. Carlo ci sei? Adesso sono, c'è quella gru illuminata a Milano. 9.35, cioè vabbè sei vicinissimo a me. Ok, poi è un presepio, l'ha visto, l'hanno Natale quella gru, bellissima l'hanno fatta. Tutta illuminata, sembra vada posta per Natale. E l'hanno fatta perché a terra non le elicotteri del 118 del soccorso, e se non le illumini si sbattono di lì, è già pericoloso perché è un beata proprio nella direzione dove atterrano. Sì, perché c'è l'eliporto lì a Rizzeddu, dentro, diciamo, dietro l'Inps. Sì, infatti se c'è un po' di nebbia sicuramente c'hanno le mappe, c'hanno il radar a bordo, perché se no è pericolosissimo di lì quel pezzo lì. Ok, a torre di controllo il mic, avanti qua. Sì, l'ho vista, tutta illuminata bella, infatti è così. Io quando ero nell'altra casa avevo chiesto proprio al comando di polizia e mi aveva dato delle misure ben precise, infatti io mi tenevo sotto la misura di sicurezza e quindi luci non ne ho messo, se no se io tiravo su per dire il tradicio il sistema con le direttive dovevo mettere la luce in punta, perché già il palazzo è alto, più andavo io a 10-15 metri, invece mi sono tenuto a 6 metri e non ne ho messo luci. Sì Giulio, hai detto molto bene, allora la radio che c'hai tu, quella che ti ha dato Franco per capirci, quella l'ho comprata nuova da Audiolinea, da Mario Notari in Viale Mameli, nuova, esattamente nel 1986, nel febbraio del 1986 era appena uscita, capito? Quindi quella radio è un unico proprietario praticamente, perché me l'ho comprata io e poi l'ho tenuta 5 anni e l'avevo data a Franco e mi avevo preso il 940 che era uscito dopo quella lì. Nel 90 mi sembra, nel 90-92 era uscito il 940, perché io ci avevo il 920, avevo preso il 940, tutto qua, quindi quella radio è ottima, le riparazioni che sono state fatte, due riparazioni in tutti questi anni, due riparazioni sono state fatte tecnicamente, la persona è valida, quindi non c'è problema, perché una l'ho fatta io e la seconda l'hai fatta tu Giulio, quindi per gli anni che ha quella radio diciamo che è perfettamente a posto. Tutto qua, avanti Franco. Oggi ma ci stavo dicendo, ma l'alimentatore pure ti ha volato, non mi ricordo, mi sei volato pure l'alimentatore da 40? No, l'alimentatore io switching da 30, no, l'alimentatore no, quella no, il microfono sì, avrebbe dato la radio e il microfono, ma l'alimentatore no. Comunque guarda che ti ho mandato le caratteristiche su WhatsApp, Franco, se così lo vedi, c'è scritto anche l'anno di costruzione, eccetera, c'è scritto tutto, insomma, anche il peso, pesa 6 kg e 300 grammi mi sembra, una cosa del genere mi sembra di aver letto, guarda il WhatsApp che ce l'hai. Ok, vai, va bene. Cioè, facciamo entrare a Carlo, sei arrivato a casa, ci sei Carlo? Sì, sono sotto casa di Antonello Pomponi. Sotto casa di Antonello? Sei 9.35, perciò volevo arrivare più forte. Allora, con l'antenna sinceramente potrebbe andare un po' meglio, perché per essere così vicino, se sono 9.35... È l'antennino piccolo, Ti ho ascoltato più forte giù all'ippodromo. Ok, e cosa volevo dire, Franco, il tuo cos'è, un 68 o un 14? 68. Sì, sta andando un bel segnale, radio forte, sempre 60 di microfono. K, sì, il microfono è un MC. Andrà bene, una bomboletta anche il tuo. Ok, Claudio, a te il mic. Quella è tutta roba mia, lo stesso, roba, sia microfono, radio. Poi ho volato anche l'alimentatore PS430, non so che fine ha fatto fare, io ho il PS50, c'ho tutta la linea io del 430, ma fa 430, 140, ormai sono tutte in linea, quindi tutto qui in V2. Guarda che quell'antenna che c'ha lui funziona molto bene, perché io lo sentivo da Giave con quell'antennino lì, Santiago 9 o Roberto. Capito, funziona molto bene con l'antenna invece. Pensavo che stavi usando l'antenna lunga, Carlo. No, l'ho dimenticata a casa perché avevo caricato delle cose, quindi l'ho tolta, mi sono ritrovato la Mini Snake, quella della Alan, mi sa, o Midland che sia, e ho messo quella, è poco più di, penso 50 centimetri. Aspetta, proprio, continuo a dire che ha ragione sempre Giulio, la zona fa la differenza. Con quell'antenna piccolina così io pensavo avessi quella grande 5 ottavi, invece c'è quella un quarto d'onda e che aspetta arrivarvi una bomba nella zona. Sono io che ti tiravo proprio fuori. Vai Giulia. Certo che sì, beh, è ovvio. Intanto tu con l'antenna che hai adesso hai un guadagno superiore rispetto a quella della Mantova, per cui anche quello è un vantaggio, è tutto un insieme di vantaggi che fa sì che riesci ad ascoltare anche con un antennino piccolino. Certo che sì. Carlo, adesso già ti sento, a voi adesso ti sento, ho incominciato a sentirti quando sei uscito dalle gallerie. Avanti Carlo. Sì Giulio, io ti ho salutato, ci siamo anche sentiti da Giave, io ti sentivo molto bene, ho avuto anche sin dentro Bonorba che parlavi di un motorino d'avviamento, quindi a lunghi tratti ti ho sentito anche sino a Giave. Poi praticamente su tutta la 131 Claudio mi ha accompagnato, perché lo sentivo ovunque. Sì, è certo, Claudio non ha problemi di ascolto e tanto meno di trasmissione, dove si trova, e poi con l'antenna adesso che ha un guadagno superiore a quella di prima, e soprattutto anche guadagno superiore all'antenna mia, oltre che alla posizione. Io purtroppo sono nella bassa valle, per cui, ma comunque mi accontento, perché perché sono soddisfatto ugualmente, perché riesco ad arrangiarmi e a sentire un bel po' di cose e un bel po' di persone. Avanti Franco. Ecco, SL, sì. Sì, claro, adesso c'ho un altro alimentatore, un ZG da 40 ampere con picchi di 60, capito? Che pesa un trono. Ma sono buoni quegli alimentatori, Franco, sono buoni. No, io vabbè, ho sempre l'alimentatore di linea, la colonnina, ho tutta la linea completa del K, diciamo, sia per il 140, sia per il 430, che per il 440. Non l'ho dato il 440, l'ho dato da solo, non io quello che avevo l'ho venduto, basta, perché mi ero stufato la seconda volta, in giro di due anni io ci ho rimesso 220 e 220, 440 euro su quella radio. Me l'ha chiesta un carissimo amico d'infanzia, che non è qua a Sassari, ma è a Porto Torres, e gliel'ho data perché la radio è revisionata, nuova, cioè non era...